si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati. Subito i nostri contatti, se volete interagire con noi in tempo reale ci trovate su Facebook, la nostra pagina Si può fare trattino Radio 24, invece su Twitter l'account del programma è chiocciola Si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi, 349-238-6666 se volete scriverci i vostri sms. Più avanti, dopo però il giornale radio delle 9, apriremo anche il telefono verde, il numero verde per le vostre telefonate 800 24 00 24, ma più avanti. Adesso andiamo subito ad iniziare. And now the good news. E cominciamo come ogni mattina con una buona notizia. Con una buona notizia, questa volta viene dai cantieri per il recupero di Pompei, il progetto Grande Pompei. Quante volte ne abbiamo sentito parlare? Ebbene, finalmente abbiamo notizia che almeno uno di questi cantieri si è chiuso, o meglio, si sta per chiudere in questi giorni. Un cantiere che ha riguardato la casa del Criptoportico, restaurata in 380 giorni, soltanto con 10 giorni di ritardo rispetto ai tempi indicati dal bando. Ogni tanto è giusto anche chiudere alcuni di questi capitoli di cui parliamo, in genere per le cose che non funzionano, quando crolla qualcosa o quando l'Europa ci redarguisce. Bene, questa volta possiamo dare notizia che i lavori a Pompei, in questo particolare cantiere inaugurato il 6 febbraio dell'anno scorso, ricordiamolo, con i ministri Barca, Ornaghi, allora ministro dei beni culturali, ne sono già passati altri due, e il ministro Cancellieri, con il commissario europeo Johannes Hahn, hanno appunto a terminare all'inizio di questa settimana. Congratulazioni dunque all'ex ministro Ornaghi, all'ex ministro Brai, che sul progetto Grande Pompei aveva puntato e ha puntato molto. Auguri al nuovo ministro di proseguire su questa strada. Dario Franceschini, il nuovo ministro per i beni culturali, è giusto ricordarlo, è giusto ripartire, soprattutto quando si riesce a mettere un punto, una parola fine positivamente su una vicenda. Questo è solo uno dei tanti cantieri per il recupero e la manutenzione di Pompei, però ripetiamolo, questo è andato a buon fine. Andiamo a vedere invece sui giornali di oggi di che cosa si parla. Principalmente si parla, naturalmente, purtroppo, di quello che alcuni giornali definiscono eventi di guerra in Ucraina. Per altri siamo già più in là, per altri ancora forse non è giusto parlare di intervento militare, perché le basi militari in Crimea russe ci sono sempre state, però la situazione è davvero delicata. Ci sono le forze paramilitari filorusse che stanno in queste ore, queste sì, mettendo a soqquadro la capitale della Crimea. Fra poco vedremo. Cominciamo con i titoli. Putin minaccia l'invasione dell'Ucraina, duro colloquio di Obama con il leader russo, fermate le truppe. Si alza ancora la tensione, il presidente russo ha ottenuto dal Senato il via libera per inviare truppe allo scopo di normalizzare la situazione. Lungo colloquio con il presidente americano Obama, che ha detto: fermate le truppe, state violando il diritto internazionale, se andiamo avanti così diserteremo il G8. Da Kiev il premier Yatsenyuk, in carica da due giorni, sostiene: se la Russia interviene sarà guerra. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha convocato una riunione di sicurezza, dura condanna dell'Unione Europea. Si gioca tutto sulle parole, perché se la Russia interviene sarà guerra, ma la Russia sta già intervenendo, anche se non è ancora stato sparato un colpo. Per capire meglio che cosa sta succedendo da quelle parti, possiamo leggere il reportage di Domenico Quirico sulla Stampa, che si trova proprio lì a Simferopoli. Scrive Domenico Quirico: forse scrivo già da un altro paese, Simferopoli non più Ucraina ma Russia, i nuovi colori bianco, rosso e blu sono ovunque, sui palazzi del potere, intrecciati nei nastri dei capelli delle ragazze, i soldati russi sono nelle strade, negli aeroporti, la Crimea torna russa e poi forse tutto il sud-est che ieri era in fiamme, assalti ai palazzi, feriti, bandiere russe, richieste di aiuto a Mosca, siamo in pericolo, gli estremisti di Kiev ci attaccano. Come sempre gli uomini entrano nelle tragedie cantando, berciando, ignari, indifferenti, stoltamente felici, scrive Domenico Quirico. Anche ieri è successo a Simferopoli, fredda e grigia, come sepolta sotto la cenere. Il centro era fitto di gente, anziani, famiglie, fidanzati, venuti ad applaudire i soldati russi. Le foto con il telefonino sotto la statua di Lenin, con aria accesa e imbambolata, costumi cosacchi, fruste, vecchie divise della Marina russa, con i cappelli da ammiragli, cori, una festa con i caffè e i cinema pieni. Ha riaperto anche il circo, quindi grande festa mentre si muovono i venti di guerra in Crimea. Il palazzo dei sindacati è caduto alle 13:30 in punto, non è stato difficile, lo difendeva soltanto la vecchia signora Irina. Gli assalitori erano terribili, gli assalitori, una centuria ben inquadrata di energumeni, il volto coperto da passamontagna, torsi e bicipiti che tendevano le tute mimetiche. Sono arrivati in fila per tre, passo militare e la bandiera russa naturalmente in testa. La signora Irina che si domandava: sono pazzi, questo palazzo appartiene a tutti noi, perché fanno così? Hanno anticipato ieri, scrive ancora Domenico Quirico, la data dell'autoproclamato referendum sull'autonomia, il 30 marzo, perché nessuno si faccia illusioni sul risultato. Loro hanno attaccato una bandiera russa nella sala che diventerà il centro stampa del nuovo movimento. Putin ha in mano il gioco, non intende lasciarlo. L'annuncio del premier ucraino che Kiev non intendeva reagire con la forza lo ha interpretato come un segno di debolezza e non di prudente ragione. I soldati russi dopo 24 ore erano più spavaldi, scoperti l'aria dei padroni di casa, e secondo alcune cifre sarebbero già 6.000 i soldati russi in questo momento in Crimea. All'inizio e quelli presenti nelle basi militari sono molti di meno, forse un paio di migliaia, quindi capite che l'escalation è tutta sotto i nostri occhi. Lasciamo per un momento l'Ucraina e la situazione internazionale per tornare alle vicende più così di casa nostra. Tensioni, scrive il Corriere, nel PD su Gentile, spinta per le dimissioni. Sulla nomina del sottosegretario alle infrastrutture Antonio Gentile si è aperto un fuoco di fila tra i democratici. Il partito si divide e alcuni chiedono le dimissioni. L'esponente alfaniano è accusato di avere fatto pressioni sulla stampa dell'Ora di Calabria per impedire la pubblicazione della notizia di un'indagine che riguardava il figlio. È una cosa piuttosto pesante questa, che scuote dal di dentro fortemente il neonato governo Renzi. Vediamo come ne parla la Repubblica, citando Lorenzo Guerrini, che è il coordinatore della segreteria del Partito Democratico. Quel nome l'ha voluto Angelino, ora rifletta sui danni alla coalizione. Siamo un governo di coalizione, non siamo un monocolore. Antonio Gentile c'è stato indicato da un partito alleato, però le critiche a questa indicazione stanno diventando un problema. Penso che chi l'ha proposto debba fare una riflessione sull'opportunità della scelta. Matteo Renzi chiama Lorenzo Guerrini, il coordinatore della segreteria del PD, 47 anni, già sindaco di Lodi, padre di tre figli, il fedelissimo che ha seguito il premier come un'ombra in tutte le consultazioni. Pur con la felpata prudenza del democristiano, strattona Alfano. Il caso Gentile non ce lo possiamo permettere. E questo è appunto il caso Gentile, questo sottosegretario che avrebbe minacciato il quotidiano della Calabria, l'ora che si occupa di inchieste anti-ndrangheta, perché riguardavano il figlio. Insomma, la notizia l'avete sentito tutti. Questo certo non è un bel, come dire, una bella mostrina da appendere al curriculum per diventare sottosegretario. Ecco, ci si aspetterebbe qualcosa di meglio. Sempre da Repubblica e sempre per quanto riguarda la politica, Bersani: aiuterò Matteo a diventare più concreto. Leggiamo questa intervista al ex segretario del PD Bersani, che in qualche modo fa delle aperture notevoli nei confronti di Renzi. Anche sul Job Act Lei ha sempre detto che il problema del lavoro non sono le regole, ma gli investimenti. È così, dice Bersani. Detto questo, il nostro modello non funziona più e in giro per il mondo ce ne sono di migliori. Nel piano Renzi potrebbe entrare la Flex Security? È il modello giusto, la Flex Security, ricordiamo, il modello che propone Matteo Renzi, il modello danese, meno garanzie sulla tenuta del posto di lavoro, più garanzie sulla tenuta del reddito del lavoratore, cioè in caso di licenziamento scatta il sussidio di disoccupazione, risponde Bersani. La Flex Security, sulla Flex Security sono d'accordo, il problema è che costa tantissimo, bisogna trovare le risorse, devono essere tante, ma se si riuscisse a tirarle fuori, un sostegno di 4 anni, attenzione alle persone che perdono il lavoro, può sostituire l'articolo 18, e questa è una dichiarazione importante di Bersani. Che poi dice, a proposito della domanda, è la minoranza del PD aspetta un passo falso di Renzi per saltargli addosso? Parlo per me, non è questo il mio spirito. Io non cerco rivincite, penso che il centrosinistra ha già vissuto molte lotte fratricide che non hanno portato bene. Se bisogna aiutare Matteo a rendere più concreti i suoi progetti, noi lo aiuteremo. Ecco che spunta la promessa sincera, e tutti possono crederlo perché Bersani non è uomo da doppie trame, un endorsement importante nei confronti del neo premier, e ci mancherebbe altro, il Partito Democratico l'ha appena fatto segretario, lo hanno appena portato a Palazzo Chigi, vorrei vedere. Andiamo avanti sugli altri giornali. Questa è la versione del giornale. Si vota tra un anno, la svolta del PD. I renziani dicono le elezioni non sono un tabù. Tensione con il nuovo centrodestra per il sottosegretario Gentile. Tasse, inizio shock, mazzata da 1 miliardo per le imprese. Se ne occupa anche il Sole 24 Ore di oggi, che oltre al principale titolo Venti di guerra in Ucraina, parla della TASI, appena chiuso il capitolo sulla nuova tassa che va a sostituire sostanzialmente l'IMU, si comincia a scoprire com'è, come non è, come funziona. Allora ecco il titolo: TASI, così i conti per case e capannoni. La possibilità di alzare l'aliquota fino all'11,4 per mille penalizza immobili produttivi e seconde abitazioni. Leggiamo l'inizio dell'articolo di Gianni Trovati, che è questo: la clausola di salvaguardia che vieta alla TASI, attenzione perché qua si perde il filo, sull'abitazione principale di superare la vecchia IMU, perché questa è la clausola, la nuova TASI non può superare la vecchia IMU. Questa clausola, approvata venerdì scorso al Consiglio dei Ministri, risolve un problema genetico della nuova imposta, ma rischia di procurare nuovi aumenti a carico di imprese, negozi e seconde case. È l'effetto della super TASI con l'aliquota aggiuntiva dello 0,8 per mille che i comuni possono introdurre per finanziare le detrazioni. Cioè, per finanziare le detrazioni della TASI sulla prima casa, in modo da non renderla superiore a quello che pagavamo prima di IMU, si farà pagare qualcosa di più con questa aliquota aggiuntiva che riguarda gli immobili produttivi e le seconde abitazioni. Per le imprese, per esempio, scrive Gianni Trovati, inoltre, in più, quindi si alleggerisce dal 30 al 20% la deducibilità dell'IMU, qua si diventa matti, dall'IRES e dall'IRPEF. Vabbè, bisogna comprare il Sole 24 Ore in edicola, leggerlo per capire esattamente di cosa stiamo parlando. Però, insomma, la questione è questa qua. Facciamo una breve pausa per il traffico, torniamo tra un attimo e poi andremo a curiosare tra le pagine dell'inserto culturale del Sole 24 Ore domenicale. A tra un attimo. L'unica ricetta per salvare questo paese? Fare una legge che tutti devono pagare le fatture a 60 giorni, in particolare gli enti pubblici, e fare un tetto agli stipendi di tutti, in particolare degli enti pubblici, di 5.000 euro. Si avrebbe subito in giro una grossa liquidità, lo spreco finirebbe e l'Italia ripartirebbe senza tante cose. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E ben ritrovati, cari ascoltatori. Vi ricordo i nostri contatti se volete interagire in tempo reale con noi. L'account Twitter del programma è chiocciola si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi. E adesso, come anticipato, andiamo a curiosare tra le pagine dell'inserto culturale del Sole 24 Ore, il domenicale. Ritroviamo il suo curatore, il responsabile, il direttore Armando Massarenti. Buona domenica, ciao Armando. Buona domenica, ciao a te, buona domenica a tutti gli ascoltatori. Allora, oggi da dove partiamo, Armando? Ma dunque, intanto abbiamo un ospite che è uno dei filosofi più importanti e che da sempre collabora con il Sole 24 Ore, che è Sebastiano Maffettone, e abbiamo una copertina molto, molto importante su un tema che è quello della giustizia, dell'equità, diciamo, a livello non soltanto dei singoli stati, ma a livello globale. Sebastiano Maffettone non ha bisogno di presentazioni, è uno dei maggiori filosofi della politica italiani e ha scritto anche delle monografie molto importanti che hanno girato il mondo, su soprattutto John Rawls, che è appunto colui che ha all'inizio, insomma, con gli anni 60 e all'inizio degli anni 70 rivitalizzato l'intero dibattito sulla filosofia politica. Quindi io darei subito la parola a lui per fare poi una carrellata invece di altre cose, tutte piuttosto gustose, che troviamo nella domenica di oggi. Certo, buongiorno intanto Sebastiano Maffettone. Buongiorno e buona domenica a tutti. Prego, allora dunque ci racconti come la copertina di oggi del Domenicale affronta il tema della giustizia, così come ce ne stava parlando Armando Massarenti. Si parte da una cosa ovvia per poi vedere quali sono le distinzioni in materia, cosa se ne può dire di sufficientemente generale, non troppo astratto. Quello su cui tutti siamo d'accordo è che oggi nascere, lo è sempre stato in qualche modo, ma è una gran bella fortuna. Se nasci nel centro dell'Africa oppure nasci a New York avrai due destini diversi. E in questo non c'entra merito, capacità, qualsiasi giustificazione che cerchi di spiegare la diversa sorte non ha speranza, non ce n'è semplicemente, è la pura fortuna di nascere in un posto invece che di un altro. Siccome giustificare qualcosa è centrale per la giustizia, ovviamente questo rappresenta un'ingiustizia. Ma come dicevo fin qui, più o meno sono tutti d'accordo, un po' di più, un po' di meno, ma insomma ci siamo. Il problema è che naturalmente a livello globale mancano le istituzioni e quindi non si sa come realizzare maggiore giustizia a questo livello. Diciamo che ci sono grosso modo due visioni. La prima, più buonista, si direbbe in Italia, è quella cosmopolitica. Sostanzialmente sostiene che l'esigenza morale di giustizia è molto più importante della presenza di istituzioni e quindi ci fa scommettere su istituzioni che non esistono ma che potrebbero esistere in futuro. Immagina una sorta di ideale stato del mondo o governo del mondo, che ovviamente adesso non c'è e che non sappiamo neanche se sia auspicabile, ma che comunque potrebbe essere il perno intorno a cui ruota la giustizia globale. Contro di questi ci sono i cosiddetti statisti, la parola è brutta in italiano, ma è vecchia però nella cultura politica delle istituzioni internazionali. I statisti sono quelli che ritengono che la politica internazionale, abbiamo oggi un esempio chiaro sui giornali con le vicende dell'Ucraina e Putin, sia solo una questione di forza, di robustezza del carattere e soprattutto delle armi che stanno dietro il carattere, e che questo spieghi tutta la politica internazionale, per cui oltre i confini dello Stato non ci sarebbe giustizia. È facile dire che la prima visione è troppo utopica e idealistica e la seconda troppo povera e iporealistica, se chi se me lo consente. Quindi vado alla ricerca di una terza visione che chiamo, anche per mancanza di fantasia personale, internazionalismo liberale. Sostanzialmente trovare un ponte tra le due visioni, una visione più adatta ai nostri tempi, quindi più adatta a un mondo globale, ma non per questo troppo utopica, religiosa, moralistica. Senta Maffettone, le posso fare una domanda così che corrisponde un po' a una curiosità, un'esigenza mia personale, ma forse anche non solo. Ci dice un motivo per appassionarsi al tema della giustizia al giorno d'oggi in Italia? Tema che, per come è stato affrontato in questi anni nel confronto tra politica e giustizia, ha anche, credo, stancato molto, purtroppo, perché invece è importante parlarne e capire, ha stancato, credo, molte persone, perché in Italia questo tema ritorna costantemente con una certa fatica. Invece perché lei, se ci volesse dare un messaggio positivo da questo punto di vista? La mia cosa, la giustizia di cui parlo io, non è quella penale, ma è quella sociale, quella degli equilibri all'interno della società. Riguarda innanzitutto ciò di cui ho parlato, cioè il rapporto tra ricchi e poveri del pianeta. È assurdo che ci siano persone che, come in Italia, fanno la dieta per 3 mesi all'anno mentre altri non possono mangiare. Ecco, un mondo così non è un mondo in cui si può vivere, perlomeno da persone per bene. Ma non è solo questo, c'è anche una forte ingiustizia culturale, c'è chi non può studiare, c'è chi non può crescere nella propria cultura perché altre culture si impongono e travalicano le possibilità della cultura locale. C'è l'ingiustizia delle armi, c'è chi ce le ha e chi non ce le ha, c'è l'ingiustizia ecologica, c'è l'ingiustizia della finanza, delle migrazioni, cioè sostanzialmente è un mondo storto. Ora, un vecchio professore ha una sola esperienza più degli altri, vede persone giovani tutti i giorni e le assicuro che i ragazzi sono appassionatissimi di queste cose. Anche addirittura sorprendente che non ci sia un'offerta politica in senso stretto, cioè di partiti, che copra temi del genere, perché le assicuro, i ragazzi intorno a 20 anni penso che questo sia il primo problema del mondo. Certo. Credo che abbiamo ragione loro, intorno a noi. Grazie Armando Massarenti, se vuoi aggiungere o commentare. Intanto aggiungo questo, che questa riflessione che ha fatto Sebastiano Maffettone è praticamente un'anticipazione di una lecture che lui terrà in Inghilterra a Durham, che è appunto sul problema della giustizia globale. Ora però il problema della giustizia, noi possiamo anche declinarlo in tanti modi e riguarda la cultura in generale, perché adesso non vorremmo farne un tormentone, però la nostra questione del manifesto per la cultura, che poi diventa l'idea di una costituente per la cultura, che poi diventa l'idea di riformare il Senato delle competenze, in questo numero ha un intervento d'eccezione, che è quello di Luciano Canfora, cioè un grande intellettuale italiano che ci racconta come i senati appunto possono aggiustare quelle storture. Uno dirà: cosa c'entra con l'equità, con l'eguaglianza sociale? Beh, direi che c'entra, perché è un paese in cui che si occupa di più della cultura, quindi anche dell'istruzione, anche dell'immettere nuove conoscenze appunto e immettere nuovi entusiasmi da parte dei giovani, è un paese sicuramente più giusto, più corretto e anche che può crescere in maniera molto più armoniosa. Ecco, poi potrei dire tanti argomenti di questo numero, abbiamo un bellissimo pezzo di Ruozzi su Erasmo, gli adagi, cioè i proverbi di Erasmo da Rotterdam, abbiamo una nuova rubrica di poesia che ci propone Mark Strand tradotto da Damiano Abeni, cioè dopo Poesia d'Oggi dei poeti italiani adesso proponiamo poeti stranieri molto importanti, molto famosi, con delle bellissime traduzioni italiane dove quasi il traduttore diventa anch'esso poeta alla stessa stregua di colui che viene tradotto. Sì. Poi abbiamo ancora interventi sul caso Stamina, ecco, la Elena Cattaneo. L'inganno di Stamina è il titolo, molto importante questo. Sì, è la lezione che noi dobbiamo trarre appunto quando c'è una carenza di conoscenza nelle decisioni pubbliche, allora poi nascono questi casi fintamente compassionevoli che fanno molti danni. Poi abbiamo grandi curiosità, Walter Benjamin che ci fa vedere le sue ricette per esempio, e abbiamo anche Gualtiero Marchesi, grande cuoco italiano, che ci propone una sua ricetta bibliofila, raccontandoci anche quali sono i libri da cui ha imparato molte cose. Poi abbiamo Umberto Eco, un pezzo di Umberto Eco. Ecco, appunto, stavo per dire, Armando, stavo per dire dulcis in fundo, perché... sì, ecco, questo è una... abbiamo Umberto Eco, Stefano Rodotà e Diego Marconi, tre importanti filosofi diversi tra loro, ma che ci parlano dei nuovi manuali di filosofia, ma soprattutto della necessità di rimettere al centro la filosofia del nostro sistema educativo, proprio in questo momento in cui invece il ministro uscente, adesso vedremo quello nuovo che cosa ne pensa, ma noi stiamo facendo pressing perché la filosofia venga insegnata per quello che è, cioè per lo strumento necessario, fondamentale per formare nuovi cittadini, capaci di razionalità critica, capaci appunto di avere tra le mani quegli strumenti che sono poi il ragionamento, la logica. Insomma, ci sono queste riflessioni molto belle di Eco e di Rodotà che parlano delle domande della filosofia, e c'è un Diego Marconi che ci fa vedere quanto poi molte discipline che non sembrano per niente filosofiche originano dalla filosofia, tra cui anche la computer science, l'informatica, persino la meccanica. Ecco, quindi benissimo. Potrei andare avanti. Tutto questo è molto di più, lo trovate naturalmente sul domenicale di oggi, l'inserto culturale del Sole 24 Ore in edicola. Grazie mille Armando Massaretti, buona domenica, così buona come domenica. Salutiamo e ringraziamo Sebastiano Maffettone, buona domenica. Grazie a voi, buona domenica. E grazie, noi facciamo una breve pausa, torniamo dopo il giornale radio, vi ricordo 800 24 00 24 per intervenire in diretta, potete commentare quello che sentirete, potete raccontarci che cosa ha reso più bella la vostra settimana, come abbiamo fatto anche ieri, e poi il nostro contest sul personaggio della settimana, per cui mettiamo in palio anche oggi i biglietti per andare al cinema a vedere un film. I dettagli tra pochissimo, dopo il giornale radio. Si può fare cronache da un paese migliore. Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Allora riprendiamo con il programma 800 24 00 24. Potete intervenire in diretta, potete continuare a raccontarci che cosa ha reso più bella la vostra settimana, come facciamo ogni weekend. Il contest di oggi però è collegato al personaggio della settimana. Tra poco vi spiegheremo i dettagli dopo la pubblicità. Andremo a Brescia per una iniziativa, volontari che insegnano a scuola, professori in pensione richiamati a insegnare gratuitamente, un'iniziativa che fa discutere, parte appunto da Brescia, fa discutere perché sì, è giusto coinvolgere i docenti in pensione come una forma di volontariato per non disperdere queste professionalità, qualcuno però dice non è giusto far lavorare gratis le persone. E poi una petizione che viene da Roma, io non posso entrare perché la petizione per far entrare le biciclette nella metropolitana di Roma. 800 24 00 24 sono due degli argomenti che affronteremo tra pochissimo dopo la pausa per il traffico. A tra un attimo. Si può fare cronache da un paese migliore. Don't you know I'm still standing better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like a little kid. Allora, c'è qualcuno che vuole stare ancora in piedi, I'm still standing, Elton John, e sono per esempio i docenti in pensione che vogliono continuare a dare una mano. Questo accade già normalmente, insegnano nel dopo scuola, al pomeriggio, come volontari, è uno di quei lavori che uno potrebbe smettere di fare mai, perché insomma l'usura diciamo fisica è minore forse che in altri lavori. Partendo da questo punto di vista, a Brescia hanno pensato bene di sfruttare questa disponibilità dei docenti in pensione come volontari per farne un albo e dare modo così alle scuole di poter scegliere docenti selezionati ed utilizzarli proprio per fare delle cose all'interno della scuola. Ne parliamo con l'assessore all'istruzione del comune di Brescia, Roberta Morelli, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Allora, un'iniziativa che sicuramente ha il merito di mettere al centro questo passaggio di consegne, questa disponibilità di persone che sono giunte all'età della pensione ma hanno ancora molto da dare, è un'iniziativa che probabilmente potrebbe servire in molte anche aziende private, perché no, per non disperdere questo patrimonio di risorse umane, che però ha suscitato qualche piccola polemica. Intanto ci spieghi come funziona la cosa che avete cercato di mettere in piedi lì a Brescia. Allora, il nostro è un registro informale, ecco, più che albo, è proprio un registro informale che raccoglie le disponibilità dei docenti in pensione, docenti che sono ancora disponibili a dare una mano nelle scuole. Mi pareva opportuno pensare a questa misura perché sì, i docenti che sono andati in pensione da poco hanno alle spalle 40 anni di aggiornamenti e di saperi. Mi pareva che disperdere davvero questi saperi fosse un peccato, quindi a rimettere in circolo questi saperi, e considerato che già ci sono, almeno a Brescia, molti docenti in pensione che operano a titolo gratuito nelle scuole, si trattava di rendere evidente e formalizzare ciò che c'è già di fatto in molte realtà nostre e incentivare chi non è a conoscenza di questa nuova modalità di come dire, di sostegno, di aiuto al prossimo, perché in sostanza poi alla fine è una disponibilità verso gli altri. Si parte anche probabilmente dal punto di vista che insomma la scuola ha qualche carenza di risorse, probabilmente forse necessariamente in questo periodo di grosse difficoltà per le casse dei comuni ma anche dello Stato, partendo forse da queste carenze, da questi limiti. Però che cosa possono fare, almeno per quanto è il vostro intendimento, questi docenti in pensione che rientrano come volontari? Cioè quali incarichi, quali ruoli, quali orari, quali spazi della scuola possono occupare? Allora, tutto ciò che poi è relativo alla didattica, agli orari, alle modalità è di competenza della scuola, che chiamerà questi docenti. Il comune raccoglie le disponibilità dei docenti, raccoglie le richieste delle scuole, praticamente unisce domanda e offerta, e poi però la scelta è di esclusiva competenza dei dirigenti scolastici, che naturalmente poi per fare questo passaggio dovranno avere anche i passaggi di istituto, collegi docenti, eccetera. Però ci può fare qualche esempio, diciamo minimo e massimo, non lo so, di quali potrebbero essere? Ci saranno delle limitazioni, non so, possono fare lezione nell'orario normale? Assolutamente non potranno fare questo, proprio è tassativo e categorico, non potranno fare lezione durante l'orario curricolare, questo è chiaro, c'è un docente titolare. Potranno intervenire laddove ci sono dei corsi al pomeriggio, per esempio di dopo scuola, perché alcune scuole hanno attivato il dopo scuola con docenti esterni. In questo caso saranno docenti esterni non retribuiti, ecco. Quindi potrebbe anche configurarsi come un'alternativa alla lezione privata a pagamento, per esempio, per chi anche non se lo potesse permettere, perché non sono tutte le famiglie che possono spendere 30-40 euro quello che è. Chiaramente potrà essere anche questo. Voglio sottolineare che le parrocchie, gli oratori già svolgono questo servizio utilissimo di dopo scuola, per esempio, utilizzando docenti in pensione non retribuiti, quindi volontari in questo tipo di organizzazione ci sono già, quindi si tratta di vedere la disponibilità di chi ancora c'è disponibile, ecco, che non è già inserito in oratori, parrocchie o altri tipi di strutture, e inserirli nelle scuole. Che tipo di risposta comunque state avendo, o da quale base, forse è meglio dire partite, visto che l'iniziativa deve ancora in qualche modo decollare, cioè di disponibilità da parte degli insegnanti in pensione che senza sentirsi come delle ruote di scorta o come dei ripieghi o come degli insegnanti di serie B invece aderiscono con entusiasmo a questa iniziativa? Guardi, io le dico che ho ricevuto personalmente la disponibilità di un insegnante temporaneamente, come dire, inabile perché ha avuto un'operazione, quindi è sulla sedia a rotelle, ha detto: sono dispiaciutissima di non poter entrare nelle scuole, io se avete bisogno ricevo gruppetti di ragazzi per i compiti gratuitamente a casa mia. Quindi credo che questo dia la misura un po' della voglia di mettersi in gioco, la disponibilità che c'è in questo momento da parte di molte persone. E questo, aggiungo, ha sollecitato anche altre persone che non sono insegnanti a dare la propria disponibilità, dicendo: se c'è dell'altro da fare, io sono pronto, chiamatemi, pensate a cosa potrei fare, io ho una laurea in... non sono insegnante, però sono disponibile. Quindi mi sembra un bel segnale. Ecco, io ho detto che insomma potrebbe essere un segnale anche per le aziende private una direzione di marcia anche nel mondo del privato o in altri settori pubblici, non necessariamente nell'insegnamento, dove le persone che vanno in pensione, magari con un accompagnamento graduale anche prima di andare in pensione, potrebbero assumere compiti di formazione anche del nuovo personale. In qualche azienda cose del genere si cominciano a fare, un modo per non disperdere proprio il patrimonio delle risorse, delle persone, delle professionalità. Lei crede che questo potrebbe essere possibile? Ma io credo, tenendo conto appunto della disponibilità che mi è giunta l'altro giorno da parte di una persona che non appartiene al mondo della scuola e che ha altre competenze molto alte, credo tutto sommato di sì, e questo nel rispetto di quelli che sono i diritti dei lavoratori, per carità. Ecco, sì. Ecco, perché poi ecco, si apre un altro fronte. Esatto. Tengo a precisare che nell'elaborazione di questa proposta io ho sentito i sindacati scuola, sì. Mi sono confrontata e quindi voglio dire, questa proposta è condivisa dai sindacati scuola. Dopodiché certo ci sono state alcune polemiche da parte di un altro sindacato, però credo che la critica ci stia in ogni situazione, quindi per carità. Ecco, perché la critica che è stata fatta, io non so se lei si riferisce in particolare all'ANIEF, esatto. In uno degli articoli, diciamo, di cronaca che si è occupato di questa vostra iniziativa, dice che insomma la critica sostanzialmente è: fate lavorare gratuitamente le persone, e questo non va bene. Lei cosa risponde a questo? Beh, assolutamente no, io credo che il volontariato sia una forza straordinaria di cui dispone il nostro paese. Il volontariato è quello che oggi sorregge molti settori del nostro paese. Penso che ai servizi sociali, in cui c'è una presenza enorme di volontariato, la sanità, la cultura, ovunque. Anche nella scuola c'è già il volontariato, solo che per qualche strana ragione non è mai stato riconosciuto. Quindi non è altro che un riconoscimento del volontariato che già c'è nelle scuole, oltre naturalmente che un incentivo a chi non sa che esiste questa possibilità. Dopodiché sì. L'altra problematica sollevata dall'ANIEF, che in questo modo si tolgono posti ai docenti di L2, assolutamente no, perché si faceva proprio un riferimento più che altro all'alfabetizzazione degli alunni stranieri, e invece gli insegnanti che si mettono a disposizione e sarà il dirigente a definire quelli che sono i compiti e i ruoli, se naturalmente non togliendo nessun posto di lavoro, perché non, tra l'altro non è compito dell'ente locale designare, indicare i docenti di lingua 2 nelle scuole statali, cioè quindi gli ambiti e i compiti sono completamente diversi. Noi non togliamo posti di lavoro, le graduatorie che raccolgono gli insegnanti di L2 non sono graduatorie alle quali noi eventualmente potremmo accedere, quindi io non vedo assolutamente... Lei, diciamo, sgomberà così il campo delle polemiche. Io vorrei sapere anche cosa ne pensano gli ascoltatori, professori in pensione pronti a tornare in cattedra, 800 24 00 24, volontariamente... Naturalmente. Senta, dato che questa è un po' la settimana nella quale si è ricominciato a parlare molto di scuola, sì, perché finalmente sì. Io immagino tutti quegli operatori del settore, ma anche chi ha dei figli a scuola, perché si vivono delle difficoltà che possono andare dall'edilizia scolastica ai normali problemi, diciamo, nella formazione di ognuno di noi. Si è parlato di rilanciare l'edilizia scolastica, l'ha detto il ministro dell'istruzione, neo ministro Giannini, l'ha detto Renzi, come uno dei volani economici di sviluppo di questo paese, e credo che sia una cosa di cui ci sia davvero bisogno. Voi, lei come assessore all'istruzione di Brescia, qual è se dovesse indicare una priorità, un punto essenziale su cui occorre intervenire per quanto riguarda la scuola? Concorda sull'edilizia scolastica o metterebbe in cima alla lista qualcos'altro? Sicuramente, perché gli edifici sono fondamentali, però le dico che la situazione bresciana è un'ottima situazione. certo, bisogna continuamente fare manutenzioni, questo è chiaro. Il nostro patrimonio edilizio è molto vasto e quindi, sì, come in ogni casa, finito un intervento bisogna farne un altro da un'altra parte. Alcune scuole hanno 40 anni, quindi necessitano di continue manutenzioni, ma il nostro patrimonio è veramente un patrimonio eccellente. Poi, se mi permette, volevo anche ricordare che oltre a questo registro informale per accogliere, sì, disponibilità dei docenti, ho realizzato insieme all'assessore alla rigenerazione urbana un protocollo, e questo è anche questo molto particolare, che consente alle associazioni di genitori di effettuare nelle scuole piccole manutenzioni. Lei sa che negli edifici pubblici non è possibile assolutamente, ecco, nelle scuole fare piccoli lavori. In questo modo è possibile, naturalmente seguendo un rigido protocollo, quindi richieste, autorizzazioni, controllo, sì, da parte del comune. Però questo snellisce molte operazioni, che sono l'installazione delle LIM. E questo protocollo è stato redatto su richiesta dei genitori. Cioè, i genitori che sono venuti a voi a dirvi: dateci gli strumenti per poter esatto, dare una mano volontariamente, ma con insomma, il giusto equilibrio tra entusiasmo e competenze, esatto, alla rinascita, alla manutenzione, insomma. Sì, avevano necessità di installare le lavagne, le LIM, sì, e coi tempi che hanno le amministrazioni, andava molto in là. Per le lunghe. Senta, a questo proposito, lo stesso Renzi ha detto che, per esempio, per quanto riguarda l'edilizia scolastica, lui ha detto il 70% dei sindaci, lei assessore, ci dice che non tanto che hanno bisogno di risorse per fare gli interventi, quanto hanno bisogno di sbloccare le risorse che sono finanziate da piani europei, regionali, statali, che vengono dal passato. Le risorse ci sarebbero, in parte ci sono, ma sono bloccate per i mille rivoli della burocrazia, delle autorizzazioni, delle complessità burocratiche. È vero? Lei, sì, conferma? Guardi, noi abbiamo messo a bilancio ora 3 milioni di euro per i piccoli lavori, le piccole manutenzioni. Questo problema è molto grosso in provincia, in cui ci sono, mi pare, 200 milioni di euro bloccati dalla burocrazia. Dopodiché vediamo un attimo se come procede tutto l'iter, ecco, perché naturalmente ciò che appesantisce complessivamente la macchina amministrativa è proprio la burocrazia. Speriamo, Renzi ha annunciato un tavolo, speriamo non sia l'ennesimo inutile tavolo, ma che sia invece uno strumento di lavoro concreto proprio a Palazzo Chigi, direttamente da cui far dipendere lo sbroglio di queste autorizzazioni per rinnovare l'edilizia scolastica. Speriamo che ci sia davvero della concretezza. Grazie intanto, grazie, all'assessore Roberta Morelli del Comune di Brescia, buona giornata, buona domenica. Noi ci fermiamo un attimo, facciamo una pausa, poi torniamo anche con i vostri interventi, anche a quelli che sono già in linea, cari ascoltatori, all'800 24 00 24, professori in pensione, pronti a tornare in cattedra. Voglio sentire cosa ne pensate, tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Minuti, buongiorno Carlo Gabardini. Buongiorno a tutti, buongiorno. Eccoci Alessio, qua. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Agli ascoltatori in linea all'800 24 00 24, ancora qualche secondo di pazienza perché adesso andiamo subito a sentire i vostri commenti. Tra l'altro bisogna introdurre anche il personaggio della settimana. Vogliamo sentire subito allora l'ascoltatrice? Ma sì, sì, ma sì, che sono in attesa, sono ci in mancherebbe, attesa. Ci mancherebbe. Mimma, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Buongiorno, sono di Brescia, sì, un insegnante elementare, ho fatto 40 anni, 30 anni nello Stato e ora 12 anni faccio la volontaria in una parrocchia nel centro di Brescia, insegno agli stranieri, adulti. Bene. Ecco, che cosa insegna? L'italiano? Prego? Italiano, sì. Perfetto. Italiano. Volevo dire che approvo questa iniziativa perché effettivamente è valida, è molto valida per gli italiani e a maggior ragione per sì. non la lingua, perché chi vuole venire a imparare la lingua sì. vuole inserirsi. Sono, io ho conosciuto ormai credo più di 100 persone sì. a volte mi telefonano magari dall'Olanda, da Roma, mi mandano un biglietto, è una cosa, io credo che questo sia gratificante anche se sono volontaria. Cioè lei dice, Mimma, mi scusi, lei dice che insomma la priorità, il punto più importante per esempio come lei è un insegnante in pensione o comunque per quanto riguarda l'iniziativa di Brescia di farla lavorare come volontario l'insegnante in pensione è proprio quello di insegnare l'italiano agli stranieri, cioè una cosa che come dire è quasi collaterale alla scuola, perché la scuola dovrebbe già partire con col fatto che la lingua si sa, però ci sono molti stranieri che la lingua non la sanno, arrivate voi e date una grossa mano, è questo che ci esatto, sta dicendo. Esatto, perché sono adulti, magari ci sono parecchi orari, c'è un gruppo di insegnanti fa le lezioni al mattino, altri le fanno la sera, perché chi lavora viene magari la sera. Va bene. Poi c'è un'altra bella iniziativa sì. lì alla parrocchia di San Giovanni dove io vado, perché le mamme con bambini sì. possono venire, perché i bambini sono assistiti da altre due volontarie che li tengono in una sala giochi e così insomma fate un servizio completo, tenete anche i bambini mentre le mamme imparano l'italiano. Grazie Mimma, complimenti. Grazie mille. Buona giornata. Buona giornata. Buongiorno. Insomma ce ne sono tante di storie così da raccontare sicuramente. Qua alla scuola di Brescia il passo successivo è quello di farli lavorare proprio all'interno delle scuole. 800 24 00 24, tra poco riprendiamo con gli ascoltatori. Carlo. Sì signori, direi che ieri la notizia per cui su Twitter tutti twittavano pro contro, più contro direi, è il fatto che Pupi Avati ha firmato, è uno dei primi 5 firmatari del manifesto contro i nuovi diritti. Allora sono andato a vedere questo manifesto contro i nuovi diritti che è scritto sulla rivista Tempi, che è una rivista vicina a Comunione e Liberazione, dice firmate tutti per cambiare i connotati all'Europa. Secondo la rivista e sottoscrittore del manifesto il problema è che l'Europa non ha quasi altra fede e speranza se non nei cosiddetti nuovi diritti, ovvero si chiede in questo manifesto a quale fede e quale speranza alludono questi diritti? La fede e la speranza nella diffusione a livello di massa dell'aborto e dei preservativi, e siamo nel 2014 a parlare di preservativi. Cioè il manifesto, fede, scusami, il manifesto contro i diritti si riferisce all'aborto e al diritto all'aborto e al diritto a si riferisce al fatto che secondo loro in tutta sì. Europa c'è fede e speranza solamente per la diffusione dell'aborto, la diffusione dei preservativi, fede e speranza nella buona morte, quindi diciamo l'eutanasia, e poi fede e speranza nel matrimonio e nelle adozioni gay come diritti umani, messo tra virgolette, quindi evidentemente chi chiede il matrimonio per i gay è disumano secondo questo manifesto. Mi spiace molto che sia Pupi Avati a firmare questo manifesto, che reputo invece un ottimo regista, tra l'altro un ottimo ricordo, perché ho fatto credo il più bel provino della mia vita con Pupi Avati, perché Avati ha un modo suo di fare i provini che non sì. è quello di far girare e recitare una scena del film, ma fa recitare una sorta di monologo al personaggio come se parlasse in prima persona. Sì. Io personalmente sottoscrivo l'appello a favore di Pupi Avati regista, perché credo che tutti abbiano visto almeno un film di Pupi Avati ed è un almeno un regalo di Natale, diciamo, sì, piuttosto sì, sì, che sì, sì. E tra l'altro secondo me dai suoi film si respira anche qualcosa che ha a che fare con questo appello, che io personalmente, come anche tu, forse non sottoscriverei. Tra l'altro questi appelli degli intellettuali in generale forse sono anche, non so, una cosa che è un po' stancato. Ma non lo so, in realtà inutile. È abbastanza inquietante, cioè, poi vedere il numero dica di firme che ci sono sotto. No, ma il fatto che lo dica Pupi Avati piuttosto che un altro, cioè serve a mettere un'etichetta, ma non aggiunge nulla al valore in sé dell'appello, perché Pupi Avati, oltre ad essere un bravissimo regista, poi è una persona normale come tutti noi, no, quindi potrebbe averlo firmato anche Paolo Corleoni. Sì, è la vera cosa che però aggiunge, che la vera notizia è che Pupi Avati firma proprio questo manifesto, perché che esistano questi manifesti ultracattolici è un dato di fatto che tutti conoscono. conosciamo, che Pupi Avati, perché gli altri firmatari sono Giuliano Ferrara, il direttore di Tempi Luigi Amicone, Ludovico Festa, il professore Giorgio Israel, la giornalista Costanza Miriano, però da Pupi Avati non si rifila ce lo nessuno. Si aspettava Pupi Avati meno. Fa notizia. Ho letto un bel tweet che dice: non so se sia più grave che Pupi Avati si schieri contro l'aborto, preservativi e diritti civili ai gay, o che abbia fatto recitare Cremonini, che mi sembra un'ottima chiusa. Un modo per uscirne bene. Esatto. Vabbè. Rimanendo in argomento, in realtà ho letto anche una ricerca che è uscita, che dice sull'American Journal of Public Health, dice che gli omofobi vivono... Sempre qui siamo. D'altronde, se siamo attaccati da destra e manca, bisogna in qualche modo reagire. Esattamente. Vabbè. Comunque, gli omofobi vivono 2 anni e mezzo di meno dei non omofobi, ed è uno studio, come sempre diciamo, di queste università americane, però è uno studio vero fatto su 20.000 persone, quindi non su il cugino e due zii omofobi, dell'Università della Columbia del Nebraska, che hanno calcolato appunto che l'aspettativa di vita sarebbe di 2 anni e mezzo inferiore per gli omofobi. Ma per quale motivo? In realtà non c'è un motivo specifico, perché è proprio una statistica questa, cioè è fatta su sui numeri, la questione è di stress, odio, di occuparsi di questa questione piuttosto che della felicità della vita. Ma passo ad un altro argomento che a me è molto molto caro, quindi non più la gaitudine ma la punteggiatura. Io sono un appassionato di punteggiatura, ogni tanto posto delle foto sul mio Instagram tipo storia della punteggiatura in Europa. Ecco, forse questi sono i nuovi diritti, i diritti della punteggiatura. Forse noi europei dovremmo diventare i nuovi paladini in difesa dei punti e delle virgole, anzi dei due punti. Abbondiamo, come diceva Totò nella famosa scena di Totò Peppino e la mala femmina, perché negli Stati Uniti, secondo John McWhorter, che è un anglista della Columbia University, lui ha sostenuto questa tesi: potete togliere da parecchi testi americani moderni la virgola e in chiarezza perderete tanto poco da pensare che sia il caso di omettere le virgole del tutto. Gli risponde Simon Horobin dicendo: c'è una tendenza generale a un uso più lieve della punteggiatura, che sta mettendo chiaramente al tappeto l'utilizzo della virgola, quindi stanno cercando di capire se effettivamente si può eliminare la lingua, cioè credo vivere che sia... senza virgola. Esattamente, credo che sia, in realtà è una questione probabilmente che negli Stati Uniti, o diciamo con la lingua inglese, è più fattibile, perché è una lingua, diciamo, soprattutto per come è scritta tuttora, è una lingua più paratattica, perché l'italiano onestamente, fra digressioni, intenzioni sottaciute, mi sembra impossibile. Io sono un appassionato del punto e virgola, non peraltro. Me ne intendo molto, però credo di ricordare che, avendo letto qualcosa, chi scrive molto molto bene può anche farne a meno se è molto bravo, perché tu lo segui senza bisogno delle virgole. Ma qua si entra nei tecnicismi, non me la sento devi essere paratattico, però, perché sennò a un certo punto, voglio dire, ma se c'è un'incisa la virgola ci vuole. Ci sono ma regole. Soprattutto non ditelo al governo Renzi di abolire le virgole, perché per risparmiare, per semplificare, tolgono. Infatti volevo esattamente fare questo calcolo, che mi sembra ottimo, di spending review, perché effettivamente se noi calcoliamo quanto si spende ogni anno di virgole, esatto, quanto di toner, se tu togli tutte le virgole da tutte le circolari ministeriali, vorrei sapere quanto si risparmia. Secondo me si può risparmiare anche fino a 116 euro, quindi è una cosa importante. Questo volevo dire. Roberto da Verona, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, due cose. Anzi, un paio. Sulla virgola sono assolutamente d'accordo. Poi volevo fare i complimenti all'attore, perché è geniale. D'accordo nel senso che la vuoi... Ti ringrazio molto, ma... La vuoi tenere o la vuoi eliminare? Secondo me è necessaria. Ecco. Ottimo, va bene. Per farsi capire, qualche gente che parla non solo non usa i congiuntivi, non sa neanche come dire le parole in generale. Seconda cosa... alla Gran Guardia di Verona c'è un bellissimo incontro organizzato da Metafos sull'amore e sul matrimonio gay, organizzato da un gruppo di studenti che ho io. A questi omofobi che firmano che vivono di meno, andateci così vivete di più. Perfetto. Terza cosa, io sono un insegnante non ancora in pensione, non so neanche quando andrò in pensione, ma non mi interessa, perché faccio il lavoro che mi piace. Volevo dirvi questo. Io sono in parte d'accordo con gli insegnanti in pensione che possono lavorare, però sono anche convinto che forze nuove nella scuola ci vogliano, che i ragazzi che sono laureati abbiano il diritto di cominciare a lavorare, chi ha già lavorato può dare una mano. Va bene. Contando che l'ultima notizia a cui siete attenti è il fatto che in alcuni professori universitari, in alcuni concorsi sono stati allontanati più specializzati, perché vengono presi le persone parenti di baroni, e di questa è una cosa che non accetto più. Questa è una cosa che non si dovrebbe fare, che se viene fuori, che sia solo per la parentela, è anche un reato, insomma, anche se abbiamo casi su casi. Ma quando si cercano i volontari, di solito non vincono mai i figli dei baroni. Quando si cercano i volontari non pagati, di solito non credo. Vinciamo noi. Grazie Roberto, buona grazie giornata. Mille. Sono d'accordo su chi ci sta, però anche i giovani devono entrare. Buon lavoro. Grazie mille. Beh, giusto, certo. Comunque il sondaggio mi sembra buono. Chiediamo agli ascoltatori chi è pro e chi è contro la virgola, che così aggiungiamo tra i mille modi di interagire con Si può fare anche un nuovo questo. Modo. Esatto. Andiamo con Flavia che ci chiama da Mestre. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io sono un insegnante di matematica della scuola media ormai da 42 anni e prossima alla pensione. E quello che volevo dire è sì. che sono concordo con il collega che ha parlato precedentemente sul fatto che ci devono essere i giovani che prendano un po' la situazione in mano, cosa sì. che attualmente nella scuola non è possibile fare. E, inoltre, almeno nel mio territorio esistono parecchie organizzazioni di volontariato sì. e ritengo non particolarmente corretto, proprio per gli operatori che sono all'interno della scuola, fare delle attività, svolgere delle attività di volontariato così specifico sì. All'interno della scuola stessa. Quindi lei è contraria a che si facciano all'interno della scuola, Flavia. Sì, sono contraria se vogliamo sì. usare questo discorso, perché le competenze devono crescere all'interno della scuola, non possono essere continuamente delegate. Sì, va bene, no, ma ogni opinione naturalmente è legittima, figuriamoci. Credo che il valore vero sia quello dell'impegno delle persone in pensione che facciano volontariato e anche in qualche modo riconosciuto, questo è un fatto positivo. Poi si potrebbe discutere se queste professionalità possono essere spese e magari anche retribuite in qualche modo, perché sarebbe giusto che se uno passa al proprio, come dire, il proprio le proprie tempo competenze libero. Il proprio tempo libero, le proprie competenze ai giovani e ai nuovi arrivati, potrebbe essere anche retribuito, potrebbe essere addirittura un accompagnamento alla pensione, questa cosa qua, questa la dico io così. Sì. Permetto di però, dire una certo, cosa, sì. io proprio nei miei 42 anni di insegnamento sì. sono passata in varie situazioni, io sono cresciuta come insegnante missionaria, il problema della scuola è cambiato nel corso di questi 40 anni, sì. il modo di vedere la scuola, di vedere gli insegnanti, di vedere l'autorevolezza della scuola stessa, che di giorno in giorno viene completamente denigrata, e continuamente denigrata. Anche lei, se mi permette, l'ha fatto prima. Dicendo che il lavoro dell'insegnante non è un lavoro che dal punto di vista fisico è pesante. Questo io non sono assolutamente d'accordo. Va bene, Flavia, è soggettivo, guardi, è molto soggettivo. Io non ho nulla contro gli insegnanti, sono addirittura figlio di due insegnanti, quindi lo conosco il lavoro degli insegnanti. Questo poi si può giudicare. Il fatto che tu sia figlio di due insegnanti non vuol dire che tu non abbia niente contro gli insegnanti, anzi, si potrebbe dire che hai molto contro gli insegnanti. No, credo che sia un lavoro che si può continuare a fare, ma non stando in classe 5 ore al giorno, ma facendo appunto quello di cui stiamo parlando, cioè un'ora qua e là di volontariato, si possa continuare a fare tutta la vita, anche fino a 90 anni. Andare in miniera è un po' più difficile, no Flavia? Non so se sei d'accordo su questo. Su questo senz'altro, però ci sono delle, almeno su volevo questo. Sottolineare sì. questo, che ci sono delle fatiche, che sono delle fatiche. Entrare nel rapporto di uno sì. a uno, nell'intervento individualizzato, nella didattica individualizzata e quindi nel cercare di trovare delle meccanismi per entrare in sintonia con i ragazzi, è un lavoro, mi creda, molto molto complesso. Grazie, grazie. Sì, benissimo, dai, andiamo avanti. Grazie. Se no ci fermiamo qua tutta la mattina, che facciamo? Facciamo anche Serafino al volo, vai, poi dopo facciamo il traffico. Serafino, buongiorno. Buongiorno. A lei. E la collega che mi ha preceduto ha detto delle cose intelligenti e io penso anche cose diverse. Il caso è questo, liceo di Faenza, un liceo importantissimo della nostra zona, molto qualificato. Due anni fa un professore di matematica e fisica stimatissimo dei suoi studenti, con risultati straordinari, compie 62 anni, ha 41 anni di esperienza, non ci pensa neanche alla pensione, in primavera si vede ricapitare la lettera, è costretto ad andare in pensione. Questa è la normativa attuale, dottore Vigente. Ma chi è lei di questo insegnante? No, ha detto stimatissimo. Pensavo che straordinario, non volevo parlare di me. No, pensavo fosse un modo originale per raccontare la propria storia. No, mi scusi, Serafino, prego. E quindi, morale? Le sto dando dei riferimenti, si potrebbe verificare. Poi è la legge attuale. Ci sono insegnanti straordinariamente qualificati che non vogliono andare in pensione e che ricevono la legge, che non fanno domanda di andare in pensione e che raggiunti certi limiti, che sono poi 62 anni, sono costretti ad andare in pensione. Ecco, io dico che io le chiedo, un'azienda che manda via personale qualificato, perché sottolineo qualificato, che ha voglia, io rispetto coloro che hanno voglia di andare in pensione, li capisco, ma dico che c'è anche gente qualificata che avrebbe voglia di continuare a lavorare. Un'azienda manda via personale qualificato che sta lavorando praticamente gratuitamente. Abbiamo capito, benissimo, grazie Serafino. Questo infatti è un punto, credo sia uno dei punti dai quali è partita l'iniziativa di Brescia. Che poi chiamano tutti insegnanti, perché giustamente è domenica, non lavorano e quindi chiamano. Fino adesso tutti. La collega, due colleghe fa, quattro colleghe fa, tutti insegnanti fino adesso. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Momento nel quale andiamo a esplorare il mondo delle petizioni, delle richieste rivolte alle autorità, le più svariate. Power to the people, andremo tra un attimo a Roma, che tra l'altro ha vissuto una settimana di fibrillazione per una petizione stava che riguarda chiudendo, i mezzi pubblici. Sì, esatto. Stava chiudendo la città. Dobbiamo dare l'indizio. Dobbiamo dare l'indizio. Il personaggio della settimana di questa settimana, l'indizio che dico è che è un ex. È un ex, benissimo. Anche 8, con l'apostrofo, volendo, perché così può essere un ex uomo, un ex donna, diciamo, giusto? Ma senza virgola. A proposito di virgola, scrivono un bellissimo al mio Twitter, al Twitter che si può fare, vado a mangiare virgola nonna, perché ovviamente senza virgola è vado a mangiare nonna, ed è Donatella Gortanutti che ci dice la virgola serve, la vuole abolire, chi non sa scrivere magari pubblica lo stesso. Se avessimo un premio così da regalare, andrebbe regalata a questa ascoltatrice. Donatella di Gortanutti. Brava Donatella. Che potete infatti anche scriverci sia al nostro Si può fare 24, oppure al mio Twitter che è Carlo Gabardini, oppure al Twitter di... Il mio è @ Ale Maurizi. Perfetto. E allora, come detto, veniamo alla petizione di oggi, che riguarda la possibilità di far entrare la bicicletta nella metropolitana di Roma per consentire ai ciclisti di muoversi in un percorso combinato tra mezzo pubblico e appunto bicicletta. Ne parliamo con uno degli autori di questa iniziativa, che è Daniele Caucci. Buongiorno. Buongiorno. Daniele Caucci, che è anche coordinatore nazionale di Terra e appunto uno degli autori della petizione Io non posso entrare, virgola tra l'altro, perché rivolta a chi? Al sindaco Marino? Sì, questa petizione in realtà nasce un anno e mezzo fa ed era rivolta al sindaco Alemanno. Sì. Chiaramente la nostra speranza che questa petizione potesse essere ascoltata all'epoca era meno alta, perché comunque i temi della mobilità, perché Alemanno erano... non andava in bici, invece Marino. Perché Marino infatti va sempre in giro in bicicletta. Perfetto, infatti noi speriamo di poter andare anche noi in giro in bicicletta, quindi abbiamo pensato di rilanciare questa petizione, visto che appunto uno dei punti all'ordine del giorno del sindaco di Roma era quello della mobilità. Abbiamo rilanciato questa petizione una settimana fa e in meno di una settimana più di 5.000 persone l'hanno firmata. Questo ci fa pensare che appunto la richiesta di poter portare bici in metro e quella più in generale di poter scegliere di spostarsi in bicicletta o con i mezzi pubblici a Roma sia, diciamo, una richiesta sentita. Diciamo esattamente cos'è la petizione, quindi è avere il permesso di andare con la bicicletta sui mezzi pubblici, giusto? Cioè non così, sì, diciamo, portandosela, non proprio andarci sopra, non pedalare dentro i mezzi pubblici, ma no. Dilla, spiegala tu. Allora, praticamente, anche se pedalare sui mezzi pubblici non è una brutta idea, potremmo mettere dei tapis roulant. Delle ciclette, però, a quel punto, almeno delle ciclette. Cioè, questo potrebbe essere lo step successivo. Esatto. Nel frattempo, l'idea è quella che, appunto, come succede poi nelle maggiori capitali europee, fatte salve quelle che sono gli orari di punta, ci sia la possibilità di poter portare la bicicletta sulla metro in particolare, ma anche sui mezzi pubblici in generale, per poter favorire quello che è un trasporto, chiamiamolo intermodale, sì, per poter andare in bici in una città come Roma, che è una città vastissima, che ha delle salite, delle discese, non ha una dotazione di piste ciclabili. Quindi, diciamo, quindi dite già la vita del ciclista è difficile, ma almeno rendetecela facile da questo punto di vista. Una domanda però, tu dicevi che nelle capitali europee questo si fa. Ora, io non ho ricordi diretti per i miei piccoli e modesti viaggi recenti nelle capitali europee, ma non si rischia di creare il caos? Cioè, magari, appunto, gente che entra, tu dici, non nell'ora di punta, ma con la, come fate a entrare con la bici? Sotto braccio, va tenuta in piedi, come si fa? Guarda, noi appunto abbiamo verificato, abbiamo fatto una ricerca proprio sui siti delle altre città europee, abbiamo visto Barcellona, Berlino, Londra, e chiaramente abbiamo verificato che nell'orario, quello dove c'è maggior traffico, è difficile portare la bicicletta, però negli altri orari ci sono dei vagoni fatti apposta, sì, per poter fare la bicicletta. Ma la differenza è quella, è che ci sono dei vagoni fatti apposta, poi a volte, se vogliamo dire la solita cosa, c'è anche un'educazione diversa, perché in Germania effettivamente viaggiano tranquillamente con le biciclette. Quello che noi ci chiedevamo, l'immagine che avevamo Alessio ed io era in una metropolitana normale nostra italiana, se entrano 21 biciclette, volevamo capire un cosa po' come succede, funzionava. Sì, ma io penso anche che il fatto di dare, diciamo, un segnale in questo senso, sì, non sia solo per il discorso delle bici in metro, ma sia proprio per il discorso di una mobilità diversa, cioè permettere alle persone, certo, di non spostarsi in macchina, ma di spostarsi in maniera differente. Io credo che a Roma, se si fa un piano di mobilità, chiunque potendo scegliere tra prendere la macchina e non prenderla, sceglierà sempre di non prenderla, perché risparmia sia di macchina che di psicologo. No, ma è chiarissimo, ma soprattutto è fondamentale per un giorno come oggi, anche su Milano, per esempio, dove 3 ore fa, quando sono venuto qui, pioveva, adesso c'è il sole, uno cosa avrebbe fatto? Veniva in metropolitana con la bicicletta e poi tornava. Daniele Carucci, pedalando. Grazie, perché dobbiamo chiudere. Grazie per, grazie per essere voi intervenuto. Io non posso entrare perché questa era la petizione da Roma. Noi ci fermiamo, giornale radio, torniamo subito dopo. 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ordinary Love, la canzone, vabbè, insomma, manco a dirlo, degli U2, ce la segnala la vostra canzone, il vostro Si può fare di oggi, l'ascoltatore che si chiama Vincenzo Radice. Questa canzone qua, caro Gabardini, sì, è la colonna sonora del film Mandela, Long Walk to Freedom, prima di tutto, e ha vinto il Golden Globe per la miglior canzone originale 2014. Però volevo dire una cosa sulle petizioni, visto che siamo nello fango della petizione, abbiamo appena fatto la petizione per le biciclette. Volevo fare proprio una petizione minima, si possono fare anche petizioni minime, tipo la fermata del metro qui davanti a Il Sole 24 Ore in via Monterosa 91. Sì. Mi chiedo come mai l'ingresso proprio qui davanti è chiuso da sempre, da almeno da quando io sono qui è chiuso. C'è un altro ingresso a 250 metri, quindi non è grave. Però ieri che pioveva mi sono detto, però se fosse aperto anche questo ingresso qui, diciamo, non mi bagnerei. Allora volevo così fare una mini petizione firmata. Allora, ATM da Alessio Maurizio e Carlo Gabardini per chiedere l'apertura, e secondo me tutti i dipendenti del Sole 24 Ore. Non hai detto che io la sostenga, però. Allora, okay. Tu dici che siamo già solamente al 50%? Secondo me sì, perché forse sì. Fare due passi fa anche bene. Ho capito, ma c'è un ingresso qui davanti, come mai è chiuso? Non ho mai capito come mai alcune fermate... Nel senso... giallo della fermata, esatto, di via Monterosa, bello, sembra un libro di Tadini. Lucia da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, volevo dire che sulla linea 2 della metropolitana, sì, la Verde, nei giorni festivi le biciclette salgono, perché poi questa linea corre, sì, lungo la ciclabile della Martesana che porta Cannone, che è bellissima. Quindi lei la fa spesso? Come? Lei la fa spesso? No, non vado più in bicicletta perché non ho più equilibrio. Ah, aia, aia, sia mentale che fisico. Beh, però può prendere la metropolitana e portare a fare un giro la bicicletta lo stesso, giusto? Idea. Ma è solo, no, comunque, ma a Milano sì, si può portare. Guardi, tra l'altro lei, grazie Lucia, ci dà. No, voglio dire un'altra cosa, se è possibile. Certo. Che non ho fatto in tempo sabato scorso a proposito delle scuole. In montagna ho conosciuto un insegnante, era lì con la scuola, di un istituto alberghiero di Alassio, che durante la settimana bianca loro gestivano l'albergo, perciò risparmiavano, perché le vacanze in montagna si sa che sono molto care, e continuavano con le loro lezioni. Ottima questa iniziativa. Sì. E quindi il mattino preparavano le colazioni, i panini per mezzogiorno, e la sera la cena. In più questo istituto alberghiero, che ha 600 alunni, 40 hanno degli handicap e gestiscono il bar interno dell'istituto. Ottimo, ma lei lavora per l'ufficio stampa? Perché ha fatto... No, io sono della linea 2, l'ufficio stampa della linea verde. Grazie Lucia. Pensionato. Grazie. Grazie mille. È vero, l'ascoltatrice ci ricorda che a Milano si può portare la bici sulla metropolitana. Allora siamo andati a controllare, in effetti negli orari non di punta, esattamente come diceva Daniele Caucci per la petizione che riguarda Roma, si può portare la bicicletta fino alle 7 del mattino, dopo le 10 di mattina e poi dopo le 20 di sera fino a fine servizio, cioè non negli orari di punta. Però si è un cambio perché io mi ricordo da ragazzino una notte che ero molto ubriaco, che i miei amici mi misero sul tram 4. Ma come avvilire? Ma è un ricordo bellissimo. È un ricordo bellissimo. Mi misero sul tram numero 4 con la mia bicicletta perché non ero in grado di tornare in bicicletta. Questo per dire che è importante, perché uno usa la bicicletta perché magari la può usare solamente all'andato, oppure può fare dei tragitti brevi, però dopo ha un tragitto lunghissimo da fare, quindi si trova in giro con la bici. È per questo che è importante poter mettere la bicicletta sui mezzi pubblici. È proprio e soprattutto quasi solo per questo. No, non per gli ubriachi. Lo stavo dicendo. Beh, comunque è sempre un ubriaco in meno sulle strade. Ricordiamo anche che dovete telefonare per il nostro personaggio della settimana. Sì. L'indizio è che è un ex, e do un altro indizio a questo punto, giusto? Sì, do un altro indizio. Va bene. L'altro indizio è che ha vissuto lungamente all'estero, ma adesso vive in Italia. Basta, basta, basta. Silvia da Pesaro, buongiorno. Buongiorno, io volevo parlare di insegnanti, sì, che offrono insomma la loro prestazione gratuitamente. Io non sono contraria a questa forma, sì, di insomma utilizzare questi saperi anche in pensione, ma sono contraria per la modalità, cioè il volontariato istituzionalizzato, il fatto che il comune abbia stilato delle liste e che appunto da lì si possa attingere, è una cosa che mi manda fuori di testa, perché offre l'alibi alle istituzioni a non mettere denari là dove devono andare, perché se ci si affida a un volontariato stabile, e non parlo solo della scuola, penso per esempio alla protezione civile o alla Croce Rossa, sulle ambulanze, no? Questi volontari che è vero, guardi, io però le dico questo, non so, ho fatto la domanda all'assessore Morelli di Brescia e lei ha detto non faranno questi volontari, non svolgeranno le mansioni che svolgono gli insegnanti, ma faranno cose in più, cose diverse, lezioni nel pomeriggio, recupero eccetera, quindi non sostituiscono, questa è la risposta che ha dato l'assessore. Cioè che non portano via posti di lavoro. Non portano via posti di lavoro. Però è vero che l'alibi, diciamo, che uno già che ce li ha lì, poi magari gli fa fare delle cose. Questo mi sembrava la critica dell'ascoltatrice. No, l'ho detto perché per onore della verità, Silvia. Poi ma chiaramente ognuno perfettamente, va bene, è un elenco di persone da cui uno può andare a attingere, ma non mi piace proprio l'idea, perché in Italia c'è questa cosa, no? Del volontariato istituzionale, perché ormai si sa che là dove non arrivano le istituzioni vanno a tamponare questi pensionati che hanno delle risorse, per carità, ma anche giovani che si attivano nel momento del bisogno. Se invece è chiaro, ho capito Silvia. D'altra parte il suo discorso è chiaro, è per certi aspetti per anche condivisibili. Si può anche però alla protezione del territorio. Sì. Si può anche rovesciare, però, Silvia. Ai volontari, se ci fossero veramente squadre ben motivate a fare anche sorveglianza sul territorio, certe cose penso che non succederebbero. Va bene, è chiaro quello che dice. Grazie Silvia. È vero però anche il contrario, si può rovesciare anche questo discorso e dire che ci sono delle persone che hanno voglia di fare, non gli si può impedire di fare, anche gratuitamente, perché a volte anche fare gratuitamente è ammissibile. E allora cosa dobbiamo fare con queste persone che vogliono fare volontariamente? Dobbiamo fermarli? Dobbiamo chiuderli in una stanza? No, possiamo farli fare. No, no. Poi lì chiaramente si deve, come dire, dove finisce una cosa inizia l'altra. No, ma la critica era sull'istituzionalizzazione, certo, del volontariato, certo. Perché è vero che molte volte poi ci si appoggia a questa cosa e dirà, ma tanto poi c'è chi lo fa gratis. Non mi sembra che a Brescia abbiano questo testa, però naturalmente il confine è sottile. Marco da Latina, buongiorno. Marco, buongiorno. Prego. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, volevo dire tre cose molto veloci. Uno, per quanto riguarda la petizione delle virgole, sono assolutamente d'accordo. Uno. D'accordo cosa vuol dire? Eliminazione delle virgole. Vuole eliminarla? Mm. Assolutamente sì. Bene, perché vuole eliminare la virgola? Perché penso che se ne sia fatto un uso smodato. Troppe virgole, perché dice. Bloccano l'economia, troppi vincoli bloccano tutto. Va bene. Poi? Secondo, per quanto riguarda il discorso che faceva l'altra persona, sì, sul regista che non capisce quello che il regista sta facendo, eccetera. Ma io penso che ognuno abbia il diritto di avere le proprie idee e di esternarle. Cioè, lei parla dell'appello di Pugliavati, certo, contro i nuovi diritti, va bene, diritto di dirlo, certo. Va bene, questo sì. Beh, stiamo parlando di diritti, non è che dipende esternarle, certo, nel senso dipende che cosa sia esterna, nel senso che io non posso esternare il desiderio di sterminare gli omosessuali, no, per fare un esempio. Questo che ha detto Pugliavati. Questo non è stato detto. No, questo non è stato. No, ma lei dice un'opinione. Per quanto riguarda me, io io non sono razzista. Sì, sì. Per carità. Sono tradizionalista. Quindi io non discuto i gusti delle persone, dico soltanto che io non lo faccio, punto. Ma ci mancherebbe altro, è giusto. Ma quindi bisogna eliminare i preservativi in giro? Vietarli, diciamo. Come al solito siamo agli estremismi. No, ma è quello che c'è scritto nella petizione di Pugliavati, per questo glielo chiedo, sa, perché c'è scritto in quell'appello. Certo, se questo fosse condito con una migliore preparazione delle persone, sì, a quella tipologia di atti, certamente il preservativo potrebbe essere annullato tranquillamente. Questa è una follia assoluta. Ma in che senso, educati a quel tipo di atti, in che senso? Come si fa? Sta parlando del salto della quaglia? Una maggiore educazione fatta nelle persone e nelle cose porterebbe tranquillamente all'eliminazione di determinati oggetti dei quali se ne può fare tranquillamente a me. Va bene, Marco, cosa dobbiamo dirle? Le malattie non si eliminano, per esempio, con i buoni propositi, se non con l'astinenza. Ma perché quella persona è andato incontro a quella malattia? Dobbiamo eliminare quello, non la malattia. In che senso? Quello, cioè quella persona dobbiamo eliminare, invece che la malattia? No, dobbiamo eliminare. No, no, no, eliminiamo la malattia. Eliminiamo ciò che ha prodotto poi la malattia. Perché quella malattia è arrivata? Guardi, perché facciamo una cosa, Marco, nell'attesa di eliminare quello che ha prodotto la malattia, teniamoci il preservativo, se no succede un casino. Terza cosa che voleva dire? Terza cosa che in 30 secondi, perché dobbiamo chiudere, prego. Non se la ricorda, allora, va bene, Marco, grazie. Sì, ce l'ha, forza, 30 secondi. Per quanto riguarda le persone pensionate che vogliono fare volontariato, sì, non capisco questa rottamazione. Le persone pensionate hanno una loro specificità. Se lo vogliono fare gratuitamente, lasciamoglielo fare. Ma certo. Sì. E infatti questo è quello che viene proposto da Brescia. Va bene, grazie, traffico, molto in ritardo, tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Draw another breath. London calling, and I don't want to shout, but while we were talking I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide. Si può fare all'estero, oggi a Londra. Prima però, prima di andare a Londra, ricordiamo il personaggio della settimana per il quale si vincono i biglietti per andare al cinema a vedere il film in uscita il 6 marzo, Un ragionevole dubbio. Quindi i biglietti gratis per il cinema. Gli indizi sono che il nostro personaggio è un ex e il nostro personaggio è nato e vissuto all'estero a lungo, ma ora vive in Italia. Va bene, fra poco aggiungiamo qualcos'altro, sì, perché se no non ci arriviamo. Adesso, dicevamo, si può fare all'estero, a Londra, per parlare, è la settimana, non c'è niente da fare, della scuola. Ne abbiamo parlato in tutte le salse. C'è una scuola che nasce a Londra per iniziativa di un italiano, una scuola pubblica ma indipendente, lanciata, così scrivono le cronache, sul modello degli istituti liberi aperti in Svezia e negli Stati Uniti. Ci racconta tutto questo italiano che porta il nome dell'Italia all'estero con risultati di grande eccellenza, Matteo Rossetti. Buongiorno. Buongiorno. 37 anni, io leggo, maturità classica al liceo Manzoni di dove? Liceo Manzoni di Milano. Di Milano, laurea ad Oxford, wow. Laurea in? In lettere classiche e filosofia. Fondatore insieme ad altre persone della Thompson House School di Londra. Esatto, sì, di Londra, di Richmond. Una zona di Londra che si chiama Richmond. Esattamente, una scuola che il governo ha in qualche modo deciso di sponsorizzare, di sostenere. È così? Sì, c'è una politica, la politica delle free schools, che è cominciata in Inghilterra nel 2011, sì, e che dà l'opportunità a gruppi di cittadini, diciamo, sì, di proporre dei progetti di scuola e poi dopo un processo competitivo di vederli finanziati e fondati poi dallo Stato. E la sua scuola su che principi si basa? Perché noi abbiamo letto, c'era molta innovazione, molta tecnologia, molta partecipazione. Ci racconti un po' perché poi avete avuto anche questo sostegno, questo riconoscimento come free school da parte del governo inglese? Sì, allora penso che noi stessimo cercando di un po' creare un progetto di scuola che combinasse, diciamo, un po' il meglio di quello che abbiamo vissuto che abbiamo visto sia nell'esperienza privata che nell'esperienza pubblica inglese, ma anche nell'esperienza italiana. E principalmente che puntasse anche al promuovere diciamo dei valori di curiosità, coraggio e generosità, per cui andare un po' oltre al vedere la scuola, diciamo, come ricettacolo di informazioni inerti e anzi promuovere il carattere e dei valori di carattere. Questo erano, diciamo, dove stavamo puntando. Poi quello che abbiamo in pratica, abbiamo delle classi più piccole rispetto a quelle che abbiano altre scuole inglesi, perché abbiamo classi di 26 studenti, abbiamo 3 ore di sport alla settimana, 2 ore di musica alla settimana, ma anche una grandissima partecipazione dei genitori, che questa era una cosa che avevamo visto nelle scuole Reggio Emilia, sì, in Italia. E Reggio Children, il metodo Reggio Children. Come, scusi? Il metodo Reggio Children, ha parlato esatto, c'era lì, cioè, come uno dei capisaldi, sì, del metodo di Reggio è la partecipazione, cioè il vedere l'educazione come responsabilità della comunità e dell'avere nella partecipazione dei genitori una parte fondamentale. Noi abbiamo nella nostra scuola, diciamo, la nostra scuola ha una porta aperta, sì, i genitori possono incontrare gli insegnanti tutti i giorni, partecipano non solo nell'insegnamento ma anche nell'organizzazione della scuola. Senta, ma trattasi di scuola pubblica? Esatto. è una scuola quindi pubblica. Non si paga per andare, insomma. No, no, no, è assolutamente gratuita, anzi c'erano delle cose che noi, sì, io sono preside di una scuola privata nella nostra zona e vedevo delle cose che offriamo noi e che offriamo a grandissimo costo, che secondo me potevano essere anzi offerte gratuitamente e potessero anche essere parte dell'offerta statale. E semplicemente ci voleva bisogno di un gruppo di persone dell'organizzazione che fosse volenterosa e per quel motivo lì abbiamo, per esempio, offriamo più sport di altre scuole, più musica di altre scuole e abbiamo delle giornate semplicemente più lunghe. Quindi essendo una scuola pubblica ma nata su iniziativa privata, voi non siete dipendenti pubblici, cioè voi ricevete un rimborso dallo Stato per quello che fate? Sì, non tanto un rimborso. Allora, innanzitutto noi siamo totalmente volontari. Il sistema in Inghilterra funziona che che i soldi, il finanziamento statale, sì, segue i bambini, ovvero noi siamo finanziati per ogni bambino che abbiamo a scuola esattamente come viene finanziata la scuola pubblica normale che è nostra vicina. Cioè avete lo stesso budget di una scuola pubblica? Esattamente lo stesso, sì, budget per persona. Siamo autonomi nel senso che possiamo scegliere il curriculum scolastico, sì, possiamo scegliere la durata della giornata, la durata dei nostri trimestri, diciamo, e anche possiamo scegliere le condizioni di impiego dei professori. Ecco, noi abbiamo parlato poco fa di una iniziativa che viene da una città italiana, Brescia, che è quella di fare lavorare come volontari i docenti in pensione. Ora io non lo so se questa è una cosa, visto che voi parlate molto di partecipazione, nella Thompson House School di Londra, questa scuola di eccellenza di cui lei è fondatore, se una cosa del genere potrebbe mai essere presa in considerazione, oppure no, gli insegnanti sono tutti, che ne so, giovanissimi, di prima assunzione, e far lavorare i docenti in pensione. Potrebbe assolutamente essere così, anzi vi dirò, la nostra preside sono riuscito a convincerla a uscire dalla pensione per poter fondare la scuola. Cioè lei è andata in pensione e adesso da pensionata... Lei era in pensione, è sempre stata chiaramente, sì, una persona molto energetica e la pensione, diciamo, le stava un po' stretta e sono riuscito a convincerla a venire e ad essere preside per il primo anno della nostra scuola. Chiaramente il professore o docente e in generale anche le persone, secondo me in generale le persone anziane hanno una grandissima esperienza e possono trasmettere dei grandissimi valori, per cui anzi assolutamente sono una cosa che non solo potrebbe essere consona a quello che vogliamo fare, ma lo è assolutamente. Lo fate. Ma mi scusi, ma quindi è tutto volontariato, cioè i vostri insegnanti non sono pagati? No. E come funziona? I insegnanti sono pagati? No, assolutamente. Noi come corpo, come organizzazione che ha fondato la scuola, sì, siamo volontari. Mi scusi. Tutti i professori sono pagati. Sono pagati. Ci preoccupavamo per la preside convinta a non andare in pensione percepire niente. Assolutamente, torna dalla pensione ed è pagata. Scusi, non avevo capito. Il fondare una scuola nuova, cioè quando si comincia una qualsiasi nuova organizzazione, è un processo sempre carico e pieno di ostacoli a destra e a sinistra, per cui una persona che in realtà abbia avuto una grandissima esperienza professionale può essere utile, può essere utilissima, ricca, certo. È assolutamente utile, per cui porta un bagaglio di esperienza, certo, che è assolutamente fondamentale. Qui, insomma, lei, tanto complimenti, perché insomma è un bel riconoscimento, 37 anni, giovane, aver già fondato una scuola, io non ne ho fondate neanche una. No, vabbè, ma questo non ce lo aspettavamo, insomma, da Gabardini. Grazie. C'è molto, mia moglie deve avere molto del credito, devo dire. Bisogna ringraziare lei per la pazienza. Dietro a un grande uomo, dobbiamo dirla? C'è sempre una grande uomo. dietro una grande donna c'è un grande uomo. Ecco, di fianco, diciamo. Di fianco. Va bene, complimenti, grazie a Matteo Rossetti, fondatore della Thompson House School di Richmond a Londra, una scuola d'eccellenza riconosciuta dal governo inglese sul modello del Free School, una bella iniziativa. È ancora lì Rossetti? Sì, qua. Un'ultima curiosità, ma in Italia non esiste questo modello del Free School, cioè non è pensabile, no, ci sarebbe una esiste... sollevazione di scudi sindacali contro il finanziamento di una scuola privata da parte del pubblico? Sì, ed immagino che quello sia il più grande ostacolo, è stato uno degli ostacoli che c'è stato anche in Inghilterra, anche se in realtà devo dire noi paghiamo assolutamente i professori esattamente allo stesso modo che vengono pagati anche nella scuola statale. Hanno degli orari di lavoro più lunghi, però offriamo anche dal punto di vista, cioè l'offerta che noi diamo è anche una di grandissimo investimento sullo sviluppo professionale. Quindi fare un periodo nella vostra scuola, anche se si guadagna lo stesso che nel pubblico, ma si lavora di più, è un investimento perché fa curriculum, diciamo anche così. Diciamo che sì, sembra un po' troppo finalizzato. È un'esperienza sicuramente appagante, perché se è una scuola di eccellenza è chiaro che qualunque insegnante vorrebbe lavorarci. Sì, c'è sicuramente quella parte lì appunto della formazione che è importante, secondo me era sempre stata una cosa che un professore vuole sempre andare in un posto dove possa crescere professionalmente. Poi chiaramente c'è anche l'opportunità di partecipare ad un progetto nuovo, a qualcosa di innovativo, e per un professore anche giovane c'è anche la possibilità di appunto crescere professionalmente e di ritrovarsi in situazioni nuove e importanti, per cui penso che sia comunque, noi non abbiamo assolutamente avuto difficoltà nel reclutare professori e devo dire che sono veramente orgoglioso anche del fatto che dei nostri quattro professori abbiamo aperto a settembre, abbiamo avuto fino ad oggi che siamo quasi febbraio, sei mesi dopo marzo. Neanche un giorno di assenza. Va bene, ottimo, grazie ancora e complimenti. Grazie a voi, grazie. Buona giornata. Andiamo con Gabriella che ci chiama da Ivrea. Buongiorno Gabriella. Buongiorno a lei. Eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno. Io avevo pensato Mario Monti, ma non ho colto il fatto che doveva essere nato all'estero, quindi mi rendo conto di aver dato una risposta sbagliata. No, però in questo devo dire, no, perché io forse la prima volta quando ho dato l'indizio ho detto è stato all'estero e la seconda volta quando ho precisato l'indizio ho detto è nato, quindi lei ha fatto benissimo. Ma a quale notizia è legato Mario Monti di questa settimana? È legato al fatto che mi sono detta è possibile che sia nato e lavorato all'estero, venuto in Italia e ora che non lavora più in Italia. Va bene, comunque grazie Gabriele, non era lui. Grazie. Sentiamo Giuliana da Treviso. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Io direi Alan Friedman. Perché? Perché per il libro che ha presentato, per le polemiche che sono scaturite, diciamo, da questo... Beh sì, insomma, questo scuppettone. Pensavamo anche mondiale. Che poteva essere il nostro personaggio di settimana scorsa. Quindi in realtà diciamo, la notizia è già un po' vecchia proprio... infatti non è lui Giuliana. Grazie comunque. Grazie mille. Grazie. Grazie. Adesso aggiungiamo qualcos'altro, aggiungiamo un altro indizio al termine di questo giro di telefonate. Girolamo da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io vi chiamo da Firenze e poi dopo magari parliamo un attimo di come Renzi ha gestito il tema scuola a Firenze. Io lavoro in una scuola superiore, la più grande della Toscana, ma vorrei partire intanto dal tema del volontariato per un verso e dei saperi per l'altro. I saperi che noi sviluppiamo come insegnanti nell'arco di decine di anni di lavoro sono una cosa preziosa che dovrebbe essere invece valorizzata, quella sì, a livello istituzionale, penso, cioè dovrebbe essere permesso e anzi incentivato agli insegnanti che hanno delle tecnologie, delle pedagogie da poter trasmettere, a fare osmosi con i nuovi venuti che peraltro mancano appunto perché la scuola sta invecchiando e proprio perché... Quindi è a favore diciamo del volontariato da parte degli ex pensionati? Assolutamente non in quel modo. Ma in quale modo? Quello è un modo dal libro cuore, sì? Non serve a una scuola disastrata come quella che abbiamo, nella quale le cose... Cosa vuol dire una cosa da libro cuore, mi scusi? Sono la programmazione, la collaborazione, l'interdisciplinarità, non si possono aggiungere, sovrapporre, giustapporre delle pregevoli, ammirevoli diciamo disponibilità in una situazione che già soffre terribilmente, non solo per la famosa edilizia scolastica che è veramente... ma forse bene. Proprio per quello, forse perché già soffre, perché non si possono giustapporre le diverse professionalità? Ciò che c'è e valorizzare ciò che c'è. Ma i volontari ci sono, non sono mica morti. Prego? I volontari ci sono dei pensionanti che ci sono, fisicamente ci sono. Sì, ma non possono subentrare in situazioni in cui esistono delle enormi difficoltà a svolgere la cosiddetta ordinaria amministrazione della didattica. Va bene, va bene. Girolamo, questo è un punto di vista che in effetti è già stato espresso anche prima, qualche dubbio, qualche criticità sicuramente ci sarà, poi toccherà alle singole scuole, tra l'altro, che ne abbiano interesse a farlo, non credo che vogliano farsi del male da soli. Comunque, facciamo una pausa, torniamo tra poco, 00240024, torniamo anche col personaggio della settimana, vediamo se ci avviciniamo a dare questi biglietti per il cinema, tra poco. Il carretto passava e quell'uomo gridava: libri! È Biblio Apecar, una nuova biblioteca mobile, un'ape attrezzata per il trasporto di libri, che gira per la città di Trani e coinvolge gli alunni dei circoli didattici tranesi in vere e proprie gare di lettura. Ce lo presenta Elisa Mantoni, responsabile del progetto Biblio Apecar. Il progetto Biblio Apecar è un progetto che ha vinto il bando regionale Principi Attivi 2012 ed è grazie a questo finanziamento che la Regione Puglia offre ai progetti che ritiene migliori che abbiamo potuto dare vita al Biblio Apecar, appunto, che non è altro che una biblioteca itinerante per bambini. Il Biblio Apecar girerà per le scuole di Trani dalla settimana prossima e coinvolgerà le scuole, le classi delle scuole primarie in un concorso. Le classi e i bambini che leggeranno di più potranno far vincere alla propria scuola dei bellissimi premi in libri. Dopo questa prima fase del concorso, il Biblio Apecar sarà presente nelle strade e nelle piazze di Trani proprio per offrire il suo servizio di biblioteca. Quindi tutti i bambini potranno prendere in prestito un libro da leggere e poi restituirlo presso la biblioteca Giovanni Bovio. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Perché i ragazzi non si fanno vedere, sono sfuggenti come le pantere. Quando li cattura una definizione, il mondo è pronto a una nuova generazione. E non m'annoio, e no che non m'annoio, non m'annoio. Io no che non m'annoio, non m'annoio. No che non m'annoio, no che non m'annoio. Io no che non m'annoio. Tempo. Vabbè. Tempo. Mitico Jovanotti. Non si annoia, come non si annoiano le dipendenti di questa strana azienda, una scommessa vinta, si chiama V360, viene da Torino, e che promettono di lavorare al minuto praticamente, vendono servizi di segreteria al minuto, ti organizzano la giornata se sei un imprenditore, ti trovano la sala dove fare una conferenza, ti fanno da segretaria, ma però solo per il tempo di cui hai bisogno. Ne ho bisognissimo, certo. Quindi ti candidi di essere cliente al posto di mia mamma, certo. Noi abbiamo convocato una di queste delle dipendenti di questa scommessa imprenditoriale che viene da Torino, Letizia Meccola. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, la cronaca locale di Torino titolava così: il manager e le sette disoccupate, una scommessa a lieto fine. Complimenti intanto. Esatto, proprio perché, così. Insomma, infatti, di questi tempi, si riuscire a parlare di un'impresa che funziona. Sì, prego. Sì, la nostra storia inizia proprio sotto il fattore comune che è la ricerca di un lavoro. E proprio così iniziamo, rispondendo a diversi annunci, sì. Inviamo mille curriculum, facciamo diversi colloqui. Ma eravate un gruppo di amiche anche di prima? Oppure no, ognuna no, per no, conto no, suo? No. Sì. Esatto, è che sono, esatto. È che sono molto simili, strada. È che queste storie sono molto simili, giustamente. Esatto, poi anche ognuna ha la propria Italia, spaziamo dai 20 ai 37 anni, ognuno con il proprio bagaglio di studi, percorso professionale e personale diverso. E che succede? E poi approdiamo tutti nella stessa azienda, quindi superato questo colloquio che già mi piace definire un colloquio diverso, perché già dal colloquio vediamo un reale interesse a conoscere il candidato, che non è da tutti, e quindi inizia così la nostra avventura in azienda, che si chiama V360, al cui capo c'è Andrea, che è appunto un giovane imprenditore torinese, che per sviluppare i suoi progetti aziendali ha voluto intorno a sé delle donne, perché lui è convinto che noi abbiamo un potenziale che sicuramente può dare quella marcia in più all'azienda. In quanto donne? In quanto donne, esatto. Condivido, perché le donne sono più intelligenti degli uomini, è molto semplice. Bravissimo. Sì, faccio quello che sono Carlo Gabardini, non Alessio Maurizio. Faccio finta di non aver sentito. Noi abbiamo usato la canzone Non m'annoio, Giovanotti, perché anche per scherzare, non vi annoiate, perché fate un lavoro particolare, cioè cambiate interlocutore ogni volta. Praticamente gli imprenditori, gli artigiani, ora lei ci racconterà meglio chi sono i clienti poi di V360 di Torino, vi chiamano perché hanno bisogno di un servizio. Io credo che sia una scommessa per il futuro proprio vincente, cioè qualcuno che si offre di dire ti risolvo una serie di problemi, ti faccio da segretario, da se vuoi anche da maggiordomo, ma qui andiamo in un altro campo, al minuto, per il momento in cui hai bisogno, perché nessuno può permettersi, o non sono molti quelli che possono permettersi, una segretaria fissa. È bravissimo. Questo che fate voi? Esatto, proprio questo. Infatti noi abbiamo individuato quella che è una necessità e l'abbiamo colmata, diciamo. Quindi noi facciamo proprio il servizio di segreteria, ci chiamiamo segretarie virtuali, ma poi in realtà siamo delle segretarie in carne ed ossa. Abbiamo una nostra sede e gestiamo dei clienti, quindi noi andiamo a rispondere a tutte le chiamate in entrata, gestiamo l'agenda del professionista e amministriamo anche tutta la parte della documentazione. Quanti sono? C'è scritto 150 i clienti, esatto, al momento. Esatto, più o meno ne gestiamo una trentina a testa di clienti. E esatto. Chi sono mediamente questi clienti? Che profili hanno? Guarda, spaziamo da quello che è l'agente immobiliare, abbiamo degli ingegneri, dei freelance che si appoggiano a noi, dei geometri, e abbiamo anche... Ma sono tutti uomini che hanno bisogno di donne? La maggior parte sì, la maggior parte sono uomini. Abbiamo una grande imprenditrice di Milano che ha spostato il suo business in Africa e ha chiesto la nostra collaborazione per la gestione di alcuni suoi clienti che sono rimasti ovviamente qui in Italia. Ma come funziona? Nel senso che tipo faceva l'esempio di un artigiano, uno usa voi come segreteria e poi voi, cioè il cliente chiama, ma immagino voi, e voi prendete l'appuntamento e lo inserite nell'agenda dell'artigiano. È in condivisione col professionista. Ah, ecco, è questo, è che quindi è in condivisione, quindi lui in tempo reale vede quello che è perfetto. No, tutto perché mi incuriosiva. Ogni movimento che noi facciamo, lui istantaneamente ne ha conoscenza. Letizia, resta un attimo con noi, dobbiamo fare una piccolissima pausa per il traffico, torniamo tra un secondo. Scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Di nuovo in compagnia di Letizia Meccola, una delle 7 disoccupate assunte dall'imprenditore che si chiama, diamogli anche un nome, Andrea Colombo. Andrea Colombo. Titolare di V360, che si occupa appunto di... Insomma, il titolo, lei quando dice alle sue amiche che lavoro fa, come si definisce? Una segretaria in affitto, no? Segretaria virtuale. Segretaria virtuale. Poi tutte strabuzzano gli occhi e mi chiedono, ma chi cos'è una segretaria virtuale? Una segretaria normalissima, ma anziché gestire un professionista solo, noi ce ne gestiamo 30. Ma la vera domanda è: non ci sono gelosie fra i clienti? Perché uno di volevo quell'altra. Non in quel senso, nel senso che uno dice questa è la mia segretaria, però poi sento che la mia segretaria invece in realtà si occupa anche di un sacco di altri professionisti e magari li tratta meglio e gli trova gli appuntamenti migliori, e io mi ingelosisco. No, assolutamente, non c'è nessun tipo di gelosia, perché vengono trattati tutti nello stesso modo, al massimo delle nostre forze. Quindi nulla viene lasciato al caso per nessuno. Ma diventa anche difficilissimo, immagino, per voi, perché già una segretaria ha un sacco da fare, in più la segretaria di 30 persone, immagino che impazzisca e che non abbia praticamente orari. Ci vuole buona memoria anche. ci vuole buona memoria, abbiamo dei buoni programmi su PC che ci supportano in questa memoria. Poi appunto siamo in sette, quindi se io non riesco a prendere la chiamata, comunque subito l'altra mia collega che interviene. Ah, perché tutte siete segretarie di tutti, diciamo, non è che uno si affida a una di voi. Di solito abbiamo il nostro pacchetto di 30 clienti, sì. Ciascuno, ma se per caso in quel momento sono occupati in un'altra chiamata, la chiamata viene delegata a una mia collega che comunque conosce anche i miei clienti. Questo è ottimo, perché vuol dire che non si è mai malati, diciamo. È costoso questo, sì. Questa è la differenza di avere una segretaria personale che magari può essere in malattia, andare in maternità e altre mille cose, sì. Da noi 365 giorni l'anno siamo sempre presenti. Ecco perché V360. Senta, no, credo che siano i gradi 2360. Ma è costoso questo servizio per un imprenditore? Assolutamente no. Noi adesso abbiamo ci sono dei pacchetti formulati, sì, per le varie esigenze. Partiamo da un 300 euro per il pacchetto minimo, fino a salire, ma non arriverà mai al costo di quello che è assumere una segretaria a tempo, certo, pieno. 300 al mese? Esatto, più o meno partiamo da quella cifra lì. Poi abbiamo delle convenzioni con alcune associazioni, per cui gli associati a queste associazioni hanno degli sconti, ancora meno. Esatto. Va bene, insomma, complimenti. Mi incuriosisce moltissimo, è il mio sogno. La segretaria virtuale, ma anche una segretaria condivisa, si potrebbe dire. Un termine che adesso va molto di moda, la condivisione. Ma infatti noi nelle nostre sedi abbiamo anche degli uffici che affittiamo a breve termine, sì, dove appunto ci si può affittare sia l'ufficio per uso personale, se no utilizzarlo in co-working, che è un'altra cosa che in questi tempi sta funzionando veramente. Ma quindi ci sono clienti che fanno finta, diciamo, di avere lì la loro sede, dicono le presento la mia segretaria, e in realtà vengono lì solamente un giorno all'anno per fare una riunione? Ma sì, perché abbiamo delle sale grandi dove, sì, possono far tenere anche dei meeting, dei corsi. Quindi si può anche dare l'impressione, esatto, di avere un ufficio di rappresentanza. Va bene. Per organizzare le truffe, perfetto. Sto scherzando, ovviamente. Sto scherzando. Non gli dia retta. Grazie Letizia. Grazie mille. Buona domenica. In bocca al lupo. E ci saluti il titolare, soprattutto. Andrea Colombo, insomma, ha avuto lui l'idea, bravo, complimenti. Va bene, allora, questo benedetto personaggio della settimana, Paola da Milano, buongiorno. Allora, è un ex gesuita, è nato e vissuto in Argentina, vive in Italia, è Papa Francesco. Attenzione, no, perché Papa Francesco però questa settimana? Perché noi cerchiamo sempre una notizia della settimana. Ha fatto un bellissimo discorso sì, riguardante, credo proprio, il rispetto del privato e la comprensione delle vicende personali, anche dei matrimoni che falliscono. Sì, sì, sì, è vero. Del resto il Papa, insomma, discorsi ne fa quasi tutti i giorni e sicuramente notizie ci sono. Però, grazie Paola, Non è questo, possiamo dire no, non possiamo dire niente. Alessio mi fa segno di no. Michele da Firenze, buongiorno. Però è stata brava, ecco, stata questo brava. Volevo dirle. Sì, è stata brava. Quasi bravissima. Quasi. Pronto? No, dico sì. Quasi perché poteva dire a Francesco personaggio positivo della settimana, perché se gli facevano l'analisi era positivo ai cannabinoidi. In che senso? Questa non In che capito. Senso? Ci deve spiegare questa affermazione. Sta innovando talmente tanto che magari c'è tutto frutto di una. Dice che forse si fa le canne, insomma, almeno la diciamo dritta. Beh, magari con qualche canna in più e ci sarà qualche pedofilo in me, adesso saranno più rilassati. Michele, lei, non so, ha chiamato per questo, no? Poi è domenica. No, è a messa, ci sta chiamando dalla messa? Cioè, col telefonino. Mi ritorni un attimo sui binari normali, perché non capisco dove vuole andare a parare. Lascia perdere. No, ti volevo parlare. Insomma, in base alla mia esperienza di volontariato. Ah, oh, ecco, sì. Argomento volontari Brescia, sì, prego. Sì, mi sono fatto un'idea, diciamo, per me chiara di quale è la discriminante tra continuare a fare un'attività che aiuta la gente, diciamo, chi ne ha bisogno, oppure dire no perché qualcuno che dovrebbe farlo in maniera ufficiale sta sfruttando il fatto che ci siamo noi a Qual è questa discriminante? Dunque, un po' quanto è a tappeto il servizio che dai, nel senso che noi per esempio in una struttura penitenziaria distribuiamo vestiti ai detenuti che altrimenti dal momento dell'arresto al momento dell'uscita sarebbero in mutande. E quindi? Allora lì continuiamo perché sono talmente nascosti agli occhi della gente che se non lo facciamo noi se ne continuerebbero. Cioè, ho capito, lei vuol dire, voi fate un servizio che non farebbe nessun altro, quindi non vi sostituite a nessuno. Ecco, invece se facessimo una cosa che ha per oggetto tanta gente, con la mentalità italiana che le tasse sono sempre un furto, poi si piange perché non ci sono i servizi. Va bene Michele, credo di aver capito e credo che abbiamo tutti capito il senso del suo intervento sul discrimine tra volontariato ammesso e non ammesso in qualche modo. Vabbè, ma insomma questo è un tema che appassiona evidentemente, anche difficile però da dirimere. Carla da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io dico Papa Ratzinger, l'ex Papa, diciamo. Eccola qua, bravissima Carla. Sul filo di lana. La notizia, ci deve dire la notizia. La notizia è la notizia perché ho seguito anche delle trasmissioni sulla vostra radio, mi sembra da Minoli, che parlava di un complottone del giornalista Socci che faceva un articolo sul fatto che le sue dimissioni non erano poi così spontanee. E lui in realtà ha risposto con una lettera in cui spiegava perché le sue dimissioni fossero regolari. Esattamente. Brava Carla, lei vince due biglietti per andare al cinema nella sua città a vedere Un ragionevole dubbio, il film in uscita il 6 marzo, quindi non ci vada prima perché sennò non trova nessuno. Ma se aspetto giovedì allora. Ma se nella città in questione non c'è il film, che cosa glielo portiamo noi? Film? Io sto a Roma, uscirà a Roma? Vabbè, a Roma di sicuro, tra tutte le città. A Roma c'è tutto. Grazie mille. Grazie a voi, buongiorno. Carla, buongiorno. Che facciamo? Chiudiamo con Gianni da Modena, però davvero in poco tempo perché non abbiamo più di 40 secondi. Gianni. Velocissimamente. Vada. L'importanza della punteggiatura. Cartello fuori da un laboratorio artigiano di Modena. Lettini in ferro battuto per bambini smaltati a fuoco. Vabbè, chiaro, l'esigenza delle virgole, la necessità delle virgole, sì. Negozio Enoteca Bar di Bologna, ogni due panettoni gratis una bottiglia di spumante. Perfetto. Comunque Lettini in ferro, la si può anche dire Lettini in ferro battuto smaltati a fuoco per bambini, a quel punto è comprensibile. Quindi... grazie, dobbiamo salutare. Grazie mille, arrivederci. Ringraziamo Andrea Piana che ha scritto con noi il programma, Giorgio De Luca, Camilla Tomadini, Paolo Corleone in regia. Tutti i nostri ascoltatori, soprattutto, anche quelli che ci ascoltano in podcast. Buona domenica. Ciao. L'unica ricetta per salvare questo paese, fare una legge che tutti devono pagare le fatture a 60 giorni, in particolare gli enti pubblici, e fare un tetto agli stipendi di tutti, in particolare degli enti pubblici, di 5.000 euro. Si avrebbe subito in giro una grossa liquidità, lo spreco finirebbe e l'Italia ripartirebbe senza tante cose. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto.